Seguire per trovare il mio senso e se c'è una cura per me come aria per respirare io ancora la cerco. Sto camminando.